Medici Senza Frontiere è presente in Darfur dal dicembre del 2003. A distanza di un anno dall'inizio della crisi sudanese, la situazione sembrava stabilizzarsi, se non che è giunta la notizia di un collaboratore di Medici Senza Frontiere che è stato ucciso venerdì 17 dicembre. Sergio Cecchini, te sei stato recentemente nella zona, puoi farci un bilancio della situazione e parlarci delle prospettive per questa regione del Sudan? Sì, io ero stato al confine tra Chad e Darfur nei mesi di luglio e agosto di quest'anno, dove la situazione si era stabilizzata e si era tranquillizzata. Non si registravano nuovi arrivi in Chad di persone che fuggivano e gli scontri in Darfur si erano interrotti anche grazie alle pressioni della comunità internazionale sul Darfur, alle visite di Kofi Annan, di Colin Powell e delle più grandi e importanti autorità internazionali. Il problema è che da settembre sono ripresi gli scontri in molte zone del paese tra i ribelli e le gruppe governative e sempre più spesso le organizzazioni umanitarie subiscono gli attacchi dell'una o dell'altra parte. È accaduto a Oxfam, è accaduto a Save the Children e purtroppo abbiamo saputo che venerdì scorso un nostro collaboratore nel sud del Darfur è stato ucciso durante un pesante attacco dell'esercito sudanese nella città di Labado, nel sud del Darfur. Che cosa prevede Medici Senza Frontiere come impegno nel 2005? Al momento il Darfur rappresenta la più grave emergenza di intervento per Medici Senza Frontiere, sono circa 200 gli operatori di Medici Senza Frontiere, gli operatori internazionali presenti in Darfur e lavorano in 27 località. Cerchiamo dal dicembre del 2003 di dare una risposta umanitaria agli oltre 1,5 milioni di sfollati presenti nella regione. Il problema è che con la ripresa dei combattimenti gli spostamenti diventano più difficili perché le condizioni di sicurezza si sono pesantemente deteriorate e perché operatori umanitari spesso sono bersaglio di attacchi e di violenze. Parla molto di Darfur da un punto di vista politico, di risoluzione delle Nazioni Unite, di impegni per gli accordi della pace, tra l'altro proprio ieri si sono interrotti i colloqui di pace ad Abuja fra governo sudanese e ribelli, purtroppo ci si occupa sempre meno dell'aspetto umanitario delle persone fuggite dal conflitto. Ad agosto, che era la fine del periodo più critico, che era la stagione delle piogge, che era visto come un momento decisivo per quanto riguarda la possibilità di epidemie veicolate appunto dall'acqua, che potessero essere diarrea, colera e altre malattie di questo tipo qui, tutti ci aspettavamo un lento ma costante stabilizzarsi della situazione in Darfur e tra l'altro tutta una serie di indicatori lasciavano presagire questo scenario perché i tassi di mortalità e i tassi di malnutrizione stavano lentamente migliorando e questo per noi rappresentava appunto un indicatore per disegnare uno scenario di lenta stabilizzazione. Purtroppo da metà settembre sono ripresi gli scontri, sono riprese le violenze contro i villaggi, gli scontri fra ribelli e esercito governativo e purtroppo di nuovo la fuga di persone. Questo qui ha fatto sì che all'interno dei nostri centri arrivassero sempre più spesso nuove famiglie che hanno fatto riprecipitare in alcune zone i tassi di mortalità e di malnutrizione al di sopra della soglia di emergenza. Per cui il rischio è di trovarsi in una situazione di un passo avanti e due indietro e di riuscire a dare una risposta adeguata a quella che le Nazioni Unite definiscono la più grave emergenza umanitaria e in base ai numeri risulta essere tale, appunto più di 1,5 milioni di sfollati all'interno del Darfur. Quanti sfollati raccolgono i vostri campi? Abbiamo fatto una stima e riusciamo a dare assistenza a circa 800.000 sfollati in questo momento in Darfur e a 30.000 dei 200.000 rifugiati sudanesi presenti in Chad. Ringraziamo Sergio Cecchini di Medici Senza Frontiere.